Sezione venticinquesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto venticinquesimo. Se mai continga che il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra, sì che m'ha fatto per più anni macro, vinca la crudeltà che fuor mi serra, del bello ovile, ov'io dormì agnello, nimico a lupi che gli danno guerra, con altra voce omai, con altro vello, ritornerò poeta, ed in sul fonte del mio battesmo prenderò il cappello, perocché nella fede che fa conte l'anime a Dio, qui v'entrai io, e poi Pietro per lei si mi girò la fronte. Indi si mosse un lume verso noi, di quella schiera onde uscì la primizia che lasciò Cristo de vicari suoi. E la mia donna, piena di letizia, mi disse: «Mira, mira, ecco il barone per cui laggiù si visita Galizia». Sì come quando Colombo si pone presso al compagno, l'uno all'altro pande, girando e mormorando l'affezione, così vid'io l'un dall'altro grande principe glorioso essere accolto, laudando il cibo che lassù si prande. Ma poi che il gratular si fu assolto, tacito, cor a me, ciascun s'affisse, ignito sì che vinceva il mio volto. Ridendo allora, Beatrice disse: «Inclita vita, per cui la larghezza della nostra basilica si scrisse, fa risonar la speme in quest'altezza. Tu sai che tante fiate la figuri, quante Gesù ha tre fe più chiarezza. Leva la testa e fa che t'assicuri che ciò che vien quassù dal mortal mondo convien che a nostri raggi si maturi. Questo conforto del fuoco secondo mi venne, ond'io levai gli occhi a monti che gli incurvaron pria col troppo pondo. Poiché per grazia vuol che tu t'affronti lo nostro imperatore, anzi la morte, nell'aula più secreta co' suoi conti. Sì che, veduto il ver di questa corte, la speme che laggiù bene innamora in te ed in altrui di ciò conforte. Di quel che l'è e come se ne infiora la mente tua, e di onde a te venne». Così seguio il secondo lume ancora. E quella pia che guidò le penne delle mie ali a così alto volo, alla risposta così mi prevenne: la chiesa militante alcun figliuol non ha con più speranza, come è scritto nel sol che raggia tutto nostro stuolo. Però gli è conceduto che d'Egitto venga in Gerusalemme per vedere, anzi che il militare gli sia prescritto. Gli altri due punti, che non per sapere son dimandati, ma perché i rapporti quanto questa virtù t'è in piacere, a lui lascio, che non gli saran forti né di iattanzia, ed egli a ciò risponda e la grazia di Dio ciò gli comporti. Come discente, ca' dottor seconda pronto e libente in quello che gli è esperto, perché la sua bontà si disasconda, speme, diss'io, è uno attender certo della gloria futura, che produce grazia divina e precedente merto. Da molte stelle mi vien questa luce, ma quei la distillò nel mio cor pria, che fu sommo cantor del sommo duca. Sperino in te, nella sua teodia, dice, color che sanno il nome tuo, e chi non sa se gli ha la fede mia? Tu mi stillasti con lo stillar suo nella pistola, poi sì, ch'io son pieno, ed in altrui vostra pioggia ripluo. mentre io diceva, dentro al vivo seno di quello incendio tremolava un lampo subito e spesso a guisa di baleno. Indi spirò. L'amore ond'io avvampo ancor ver la virtù che mi seguette, infin la palma è all'uscir del campo, vuol ch'io respiri a te, che ti dilette di lei, ed emmi è grato che tu dica quello che la speranza ti promette. Ed io, le nuove e le scritture antiche pongono il segno, ed esso lo m'addita dell'anime che Dio s'ha fatte amiche. Dice Isaia che ciascuna vestita nella sua terra fia di doppia vesta, e la sua terra è questa dolce vita. E il tuo fratello, assai vie più di gesta, là dove tratta delle bianche stole, questa rivelazion ci manifesta. E prima e presso il fin d'este parole, sperent in te, di sopra noi s'udì, a che risposer tutte le carole. Poscia tra esse un lume si schiarì, sì che se il cancro avesse un tal cristallo, l'inverno avrebbe un mese d'un sol dì. E come surge va, ed entra in ballo vergine lieta, sol per farne onore alla novizia, e non per alcun fallo, così vid'io lo schiarato splendore venire a due, che si volgea una ruota, qual conveniasi al loro ardente amore. Misesi lì nel canto e nella nota, e la mia donna in lor tenne l'aspetto, pur come sposa tacita ed immota. Questi è colui che giacque sopra il petto del nostro pellicano, e questi fue di sulla croce al grande ufficio eletto. La donna mia così, né però più è mosse la vista sua di stare attenta, poscia che prima alle parole sue. Qual è colui che ad occhie s'argomenta di vedere crissar lo sole un poco, che per veder non vedente diventa? Tal mi fec'io a quell'ultimo fuoco, mentre che detto fu. Perché t'abbagli per veder cosa che qui non ha loco? In terra è terra il mio corpo, e saragli tanto con gli altri che il numero nostro, con l'eterno proposito, s'agguagli. Con le due stole nel beato chiostro son le due luci sole che saliro, e questo apporterai nel mondo vostro. A questa voce l'infiammato giro si quietò, con esso il dolce mischio che si facea del suon nel trino spiro. Siccome, per cessar fatica o rischio, gli remi pria nell'acqua ripercossi, tutti si posan al sonar d'un fischio. Ahi, quanto nella mente mi commossi, quando mi volsi per veder Beatrice, per non poter vederla, bench'io fossi presso di lei e nel mondo felice. Fine del canto 25.